Radio 24 Reportage. Atene, l'anima nera della crisi, di Valeria De Rosa. L'inverno che la Grecia sta attraversando potrebbe rivelarsi uno dei più rigidi degli ultimi anni. Le temperature sono andate giù all'improvviso, all'inizio di dicembre, e giù sta andando tutto il paese che cerca di resistere con le unghie a una crisi finanziaria e istituzionale. L'Europa, certo, sta aiutando, più con il bastone che con la carota, almeno questo è quello che pare agli ateniesi, che devono fare i conti con i tagli, con il blocco del turnover, con i prezzi che non scendono a fronte dei salari dimezzati. In questo malcontento si è aperta un varco alba dorata. Golden Dawn, come ormai è conosciuta in tutta Europa, nome anglosassone per una formazione politica i cui esponenti rifiutano di parlare in inglese. Solo in greco, ci dicono, è la policy del partito. Un movimento che all'ultima tornata elettorale è riuscito a strappare il 10,5%, diventando la terza forza politica ellenica. Quando cerchiamo di contattarli, l'impresa non si presenta semplice. Poi però entrare in Parlamento, dove il portavoce di Alba Dorata ci dà appuntamento, risulta più facile del previsto. Le domande in inglese, le risposte in greco, poi a videocamere e microfoni spenti, Ilias Kasidiaris ripete tutto in inglese. Questo ragazzo, 32enne, che ci riceve, ci fa accomodare sulla terrazza del Parlamento, con l'Acropoli sullo sfondo, e per risponderci indossa occhiali scuri. Λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και τηρούμε όλες μας τις δεσμεύσεις. Είμαστε αληθινοί και αυτό δεν υπάρχει στο πολιτικό σύστημα που έχει διαφθείρει την Ελλάδα. Gli chiediamo cosa da dire sulle accuse di neonazismo per Alba Dorata. Διότι έχει διαλύσει την ελληνική οικονομία. Né fascista né nazista, ci dice, siamo un partito nazionalista, tutto il resto è propaganda. Abbiamo successo perché diciamo la verità al popolo greco e manteniamo le promesse. Sul memorandum siglato con l'Europa, Kasidiaris è netto, lo respingiamo, ha distrutto l'economia greca. E allora come risolvereste i problemi della Grecia? Il problema fondamentale della Grecia è che non è indipendente. In questo momento seguiamo la politica imposta dai nostri creditori. Se la Grecia diventasse indipendente, potrebbe rifiutare di pagare il debito che noi consideriamo illegittimo. Poi potrebbe espellere gli immigrati illegali, come pure gli stranieri, che approfittano delle risorse e delle ricchezze del paese. Ad esempio petrolio, gas naturale o zone economiche esclusive. In questo modo potremmo avere una produzione nazionale e ridiventare uno Stato forte. Quest'uomo è la stessa persona, lo stesso deputato, che in un dibattito televisivo in diretta ha prima gettato acqua in faccia a una onorevole e poi ha tentato di prenderne a pugni un'altra. Un problema politico questa destra nazionalista, anche se a scavare un po' viene fuori che Alba Dorata non è una novità nel Parlamento greco. In città si dice che Alba Dorata sia una costola dei servizi segreti. La metà dei poliziotti che più o meno sono in strada ogni settimana a presidiare le manifestazioni ha dato a loro il proprio voto. Alba Dorata è una situazione abbastanza diversa di quello che è conosciuto in altri paesi, perché la maggior parte di questa organizzazione lavora allo Stato, alla polizia, e quelli che sono i leaders di questa organizzazione erano persone dei servizi segreti dello Stato durante la giunta militare. Allora, quello che fa si può dire che si fa alla parte just for the state, al limite dello Stato, diciamo. Sì, ecco. Allora non è solo un partito politico di destra, fa parte dello Stato. La parte più pericolosa di questo è che lo Stato, il governo, no? La parte del governo che fa il ministero della giustizia, come si chiama, sì, crede di poter controllare questa organizzazione al limite della funzione dello Stato. Però Questo, come vediamo, non succede. Fanno quello che non può fare lo Stato, per esempio, perché sono le stesse persone. Yannis Agelis, economista e giornalista, ricostruisce così il fenomeno. It's absolutely necessary to react against this xenophobic, racistic. Il segretario del PASOK, Evangelos Venizelos, riceve noi giornalisti ponendo al centro del suo discorso proprio Alba Dorata e la minaccia che rappresenta. To deal with this phenomenon, and this is an initiative not only from our part, from the part of PASOK, but from the so-called constitutional spectrum. È assolutamente necessario reagire, ci dice. Non possiamo lasciare che qualcuno possa credere che siamo collusi con questo fenomeno. È fuori dalla nostra storia ed è semplicistico pensare che se risolveremo i problemi economici anche questo problema si dissolverà. Venizelos parla a ragion veduta. Alba Dorata si sta insinuando nella società greca. Va nei piccoli centri a distribuire pasti, fa proseliti nelle scuole, offre aiuti ai piccoli imprenditori e sta portando avanti una campagna durissima contro l'immigrazione. Immigrati illegali che arrivano e rubano il lavoro ai greci, una campagna che spesso ha avuto risvolti violenti, come ci racconta Giorgos Tsarbopoulos, a capo dell'ufficio UNHCR di Atene. Unfortunately, there is a great increase not only in racist behaviors but in criminal acts with racist motivation, what we call hate crimes against. Sfortunatamente si sta verificando un aumento non solo del razzismo in sé, ma anche della criminalità determinata dal razzismo, quella che noi chiamiamo criminalità di odio verso gli immigrati e verso i rifugiati, legali e illegali, contro la loro nazionalità di origine. La responsabilità di Alba Dorata è evidente. Non solo perché sono stati individuati alcuni autori di atti criminali tra gli appartenenti al partito, ma anche perché si tratta di una responsabilità politica. Loro istigano la gente a utilizzare ogni tipo di minaccia verso quella che loro chiamano spazzatura. Independently of participating in the acts or not, it's at the level of political responsibility since they instigate people to use any kind of means against what they call rubbish. Un segno di questa Grecia aggressiva contro l'immigrazione è dato dalla recinzione di filo spinato a protezione del proprio confine con la Turchia. La recinzione è lunga 10,5 km e alta 4 metri e avrà la funzione di arginare il fenomeno dell'immigrazione clandestina all'interno del paese. Il progetto è costato circa 3 milioni di euro e, secondo alcune fonti citate dal quotidiano ellenico Katimerini, ha già avuto un forte impatto sull'immigrazione irregolare, che sarebbe calata del 95%. Una soluzione adottata dal governo di Samaras, che però sembra tanto un adeguamento alle richieste di Alba Dorata, che nel proprio programma propone addirittura il minamento del confine greco-turco. La controversa natura di Alba Dorata influenza la vita politica greca e lo scontro non è solo a parole. A metà dicembre un deputato di Syriza, il partito di sinistra, è stato malmenato da 3 appartenenti ad Alba Dorata. Alcuni testimoni hanno accusato la polizia di non essere intervenuta. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.